anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Basement Records, è il ritorno di Basement Records. Finalmente anche per me è giunto il ritorno sulle frequenze di Radio Wombat dopo una latitanza che durava da quest'estate, da quest'agosto. Alla fine, ai voi, ce l'ho fatta a ritornare anche io e quindi dovrete sopportarmi ancora per un altro po'. E appunto, per il ritorno, per chi già seguiva la trasmissione, è successa una cosa, diciamo tra virgolette, incredibile. Infatti avrete notato che è ritornata la sigla originale di Basement Records, ovvero quella che avete appena ascoltato, ovvero i Les Hyper Sound con Psyché Rock, il divertissement pop di Pierre Henry, uno dei pionieri della musique concrète francese. E questi Les Hyper Sound erano appunto, al di là del suo lavoro accademico, appunto, è stato uno dei fondatori, insieme a Pierre Boulez, del cosiddetto movimento della musique concrète. Questo appunto era Psyché Rock, che poi nel passare degli anni, decenni e decenni dopo, è diventata famosissima perché Matt Groening l'ha usata, velocizzata, come ve l'ho fatta ascoltare io in questa occasione, come sigla del suo cartone, del suo anime Futurama. E appunto il ritorno, quindi il ritorno di Fenafuoco, il ritorno di Basement Records, e incredibilmente è tornata anche, è rispuntata fuori la sigla di originale di Basement Records, che dopo diverso tempo ho perso il conto, sono riuscito a ritrovare dopo varie vicissitudini. Però vabbè, torniamo qua a noi sulle frequenze di Radio Wombat, e quindi è mio assoluto dovere ricordare tutti gli indirizzi per mettervi qui in contatto con noi, con Radio Wombat. Il sito ormai lo conoscerete, è radiowombat.net, la nostra frequenza in onde medie, anzi per gli amici in onde mediocri, per la zona limitrofa di Firenze, è sempre 1359 1359 sulle, appunto, sulla vostra autoradio, sulla vostra radiolina in onde medie. I nostri contatti social sono sempre Twitter Radio Wombat Fi e su Facebook Radio Wombat Firenze. La nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net per mettervi in contatto con noi, per farci conoscere i vostri pareri, i vostri suggerimenti, le vostre infamate, e chi più ne ha più ne metta. E a questo punto giunti, come suol dire, apriamo una piccola parentesi su questa nuova stagione, in particolar modo di Basement Records. Poi Tonight Alive ripartirà quando ce ne sarà l'occasione, però Basement Records riparte perché sono arrivati un sacco di dischini nuovi, un sacco di vinili nuovi, presi, proprio scovati letteralmente, grazie agli amici di questa associazione, a questa onlus fiorentina che si chiama Mani Tese, che ci hanno fornito nuovo materiale per far andare avanti Basement Records. E appunto vorrei ringraziare per questo aiuto Emilio e la Rosalba dell'associazione Mani Tese, appunto una onlus che appunto ricicla materiale di recupero e poi destina il ricavato a associazioni di volontariato. Aperta e chiusa questa parentesi di ringraziamento appunto per Mani Tese di Scandicci, ripartirei con una ripartenza soft, per modo di dire, perché non è uno dei nuovi arrivi vinilici che sono pervenuti qua a Basement Records, però appunto visto che è anche il mio rientro, il primo pezzo della puntata di stasera sarà una vecchia conoscenza, visto che ho ritrovato la sigla, ho ritrovato anche svariati 45 che magari avevo già messo all'inizio delle puntate di Basement Records, ma qualcuno se ne sarà perse. E allora, come rientro soft, il prossimo, sempre rigorosamente 7 pollici a 45 giri, sarà un classicone che probabilmente avevo già messo in una delle puntate precedenti, però ne vale assolutamente la pena di andarcelo a riascoltare. E qui stiamo parlando della house band di casa Stax, una autentica leggenda tra le etichette black americane di fine anni 60 e per tutti gli anni 70. Qui stiamo parlando appunto della quella che veniva definita house band, ovvero i turnisti che erano fissi in sala di registrazione della Stax e coadiuvavano i cantanti, gli artisti che non avevano un gruppo di accompagnamento, e quindi c'erano i leggendari Bar Keys a dargli manforte. Questo pezzo è un pezzo poi divenuto leggendario perché fa parte della colonna sonora di uno dei grandi film della Blaxploitation, ovvero di Shaft, e questa dei Bar Keys è Son of Shaft, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, e dove se no. Thank you. pezzo mitologico che ve lo dico a fare, un autentico capolavoro del genere blaxploitation. Gli appassionati l'avranno sicuramente riconosciuto. Poi, vabbè, che dire, la band che lo suonava, penso sia superfluo definire questi, diciamo tra virgolette, turnisti dei grandissimi, perché al di là del fatto che, cioè al di là degli addetti ai lavori, nessuno conosce i nomi dei Bar Keys, ma hanno prodotto e suonato in chissà quanti album della Stax Records. E per proseguire nella puntata di stasera, ora passiamo veramente agli ultimi ritrovati vinilici qua di Basement Records. E il prossimo brano ci stava benissimo, secondo me, dopo i Bar Keys, da House Band a un qualcosa che ci assomiglia, perché in questo caso sono i Love Unlimited, o le Love Unlimited meglio, che erano la backing band di niente po' di meno che di Barry White, su etichetta Unlimited Gold. Questo appunto, questo pezzo, che si chiama High Stepping Fella, You Got It Together. Vi potete immaginare, essendo la backing band di Barry White, stiamo andando sul dolce, stiamo andando sul passionale. Ovviamente questo album è prodotto dal signor Barry White, e adesso appunto ci andremo ad ascoltare questo 45 giri direttamente dagli anni 70, che è High Stepping Fella, You Got It Together. E siamo sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. E dove se no? E queste erano le Love Unlimited con High Stepping Fella, You Got It Together. Tra l'altro, come mio uso e costume, quando sono andato appunto a recuperare questi vinili, è bene che lo sappiate, quando dighi, come quando sei lì che scartabelli tra i vari vinili, ci sono delle cose che ti saltano all'occhio, diciamo, no? E avendo riconosciuto le Love Unlimited, sapendo chi erano, io non è che mi sono messo lì poi ad ascoltare né niente, l'ho preso ovviamente a scatola chiusa, sapendo un po' quello che c'era dietro. E appunto ascoltando adesso insieme a voi questa High Stepping Fella, non so se ci ho fatto caso solo io, però l'inizio di questo brano credo che sia stato campionato un po' da La Qualunque in ambito sia di house che italo disco. Questo è un brano dell'inizio degli anni 70, e quindi sia la Italo Disco che è roba di inizio metà anni 80 e la Deep House ancora dopo, decenni e decenni dopo, secondo me è stato appunto campionato più e più volte questa High Stepping Fella che vedo adesso, che è del 1979. E per proseguire su questa linea, ho preso un bilanciere. Per proseguire su questa linea, il prossimo disco ha ben inciso sul centrino una cosa che me l'ha fatto scegliere quasi istantaneamente quando l'ho visto, ovvero l'enorme scritta Motown sul centrino. Che già per i miei gusti musicali è una garanzia, però in questo caso l'autrice di questo 45 giri della Motown del 1979 è Bonnie Pointer. E mi direte voi, e sti cazzi? Sì, e sti cazzi fino a un certo punto, perché Bonnie Pointer era una delle sorelle di punta delle, appunto, non era voluto questo gioco di parole, delle Pointer Sisters, un gruppo storico, un girl group storico di fine anni 60, inizio anni 70, che ha segnato un po' l'epoca dei girl group di quel periodo. Le Pointer Sisters ovviamente erano questo girl group di tutte ragazze, tutte sorelle, e Bonnie Pointer era una, insomma, forse l'astro nascente di queste sorelle, che iniziarono a incidere per la Atlantic Records quando erano poco più che bambine, ecco, diciamo adolescenti, e poi dopo aver fatto successo, perché è stato comunque un gruppo di grande successo in America, una volta raggiunto il successo, Bonnie Pointer, che era un po' la stella, decise di puntare alla carriera solista. E alla fine degli anni 70 si accasò alla mitica e leggendaria Motown Records e iniziò a produrre musica per proprio conto. Insomma, si iniziò la sua carriera solista. Tra l'altro, noto sul centrino di questo 45 giri che il produttore era Jeffrey Bowen, che tra l'altro poi diventerà il compagno di Bonnie Pointer. E E a questo punto ci ascolteremo, questo è stato uno dei più grandi successi della carriera solista di Bonnie, infatti nel 1979 raggiunse addirittura la top 20 americana, entrò in classifica nelle prime 20 posizioni, insomma, diciamocelo, se entri nelle prime 20 posizioni della classifica americana, specialmente sul finire degli anni 70, diciamo che un po' hai fatto il botto, anche se poi, questo è un altro discorso, la carriera non è che sia proseguita poi sui viali dorati per la buona Bonnie Pointer, però ascoltiamoci il suo pezzo storico, il suo pezzo di punta che è qui, pronto sul deck, proprio giusto sotto di me, e questa è Heaven Must Have Sent You di Bonnie Pointer, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Direi decisamente disco questa Questo Heaven Must Have Sent You di Bonnie Pointer, alla fine gli anni erano quelli, 1979 ormai, appunto il periodo delle girl group era, mi sa, già passato, la disco imperversava già in America nel 1979, e quindi che fare, già qua sull'altro giradischi qui di Radio Wombat c'è già pronto il prossimo 45, e di disco in disco andiamo dalla regina dalla cosiddetta regina della disco, ovvero questo ritrovamento appunto vinilico di Donna Summer, produzione della leggendaria coppia Giorgio Moroder e Pete Bellotte, quella che ci andremo ad ascoltare Whispering Waves, e appunto, però non credo che sarà propriamente disco nel senso vero del termine, perché torniamo indietro di qualche anno. Questo pezzo di Bonnie Pointer che abbiamo appena ascoltato era del 1979, invece questo di Donna Summer è del 1976, ancora con il gruppo produttivo di Moroder e di Pete Bellotte, stavano, diciamo, ancora prendendo le misure rispetto alla esplosione e alla storia che hanno fatto con I Feel Love e con Love You Baby. Siamo prima, diciamo che stavano andando ancora a prendere le misure, però ecco, non potevano non scegliere questo 45 di recupero. Quando l'ho visto sapevo che sarei andato appunto a scegliere un qualcosa comunque interessante, anche solo per ascoltarci qualcosa di un periodo che non era proprio l'apice della carriera di un artista. E questo pezzo di Donna Summer, prodotto da Moroder e Bellotte, è Whispering Waves del 1976. Siete sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat, e questo è il ritorno di Basement Records. Thank you. Sì, insomma, si sente abbastanza che era il periodo prima dell'esplosione disco di Donna Summer e di quello che poi è diventato uno standard della coppia di produzione Moroder Berlot. Questa era proprio una canzone così sdolcinata diciamo, da crooner a livello femminile. I fasti della disco e dello Studio 54 di New York e di tutto gli annessi e connessi. Mi sa che anche se gli anni siamo lì, però insomma questo era un brano da ballo della mattonella, come lo definiremo noi, definiremo noi qui in Italia. E allora a questo punto cambiamo completamente genere, perché appunto andando a cercare questi nuovi arrivi per Basement Records. Il prossimo 45 giri che vi farò ascoltare, che in questo caso è sempre sì un 7 pollici, però è in formato EP Extended Play. Infatti ci sono due canzoni per lato e non le classiche una per lato. E torniamo in tutt'altri territori. Andiamo in ambito jazz, tra cui vi avverto questi. Questi sono solo i 7 pollici che ho recuperato, poi il restante delle trasmissioni prossime e future di Basement saranno tutti LP 12 pollici, ma in questo caso è un EP di jazz, e lo faccio per avvertirvi delle prossime puntate di Basement Records, perché la maggior parte degli LP che ho recuperato appunto da Mani Tese sono di jazz, visto che non, diciamocelo chiaramente, insieme alla classica non se li caga nessuno, e io sono stato ben felice di prenderli per poi riproporveli. Quindi sapete già dove andremo a finire nelle prossime puntate, perlomeno che non arrivi qualche ospite a salvarvi. Però questo disco è un disco del 1957 e secondo me è estremamente interessante, perché è della Firehouse 5 Plus 2 Band, che è un ensemble, è una marching band di un gruppo di pompieri degli Stati Uniti. E questo EP si chiama Firehouse 5 Plus 2 Goes to the Sea. Infatti ci sono la banda, la marching band dei pompieri che stanno allegramente suonando in mezzo alle onde dell'oceano. Però è estremamente interessante, direi, perché ci fa fare un salto indietro ancora, nonostante fosse il 57, il jazz era già andato completamente da un'altra parte. E invece i Firehouse 5 facevano un revival fondamentalmente delle marching band di New Orleans, delle cose che erano la normalità a New Orleans nei primi anni del Novecento. E è molto interessante perché appunto, cioè, al limite possiamo arrivare allo swing, però è proprio il classico format da marching band. E visto che ho la copertina sotto mano originale del 57, quando l'ho vista, come facevo a non prenderla? Cioè, spiegatemi voi se un attimo mi conoscete un attimo, era praticamente impossibile. E come in tutti i dischi di jazz, mi sembra più che giusto e doveroso ricordare il nome dei componenti di questo ensemble, che poi fondamentalmente era la marching band dei pompieri. E avevamo Ward Kimball al trombone, Danny Allgaier alla tromba, George Propert al sax soprano, incredibilmente, almeno per quanto mi riguarda, definito fish horn nelle note di copertina, Frank Thomas al piano, Dick Roberts al banjo, Ralph Ball e George Bruns alle tube e Eddie Forrest alla batteria, che probabilmente sarà solo ed esclusivamente un rullante oppure una gran cassa. Ce lo andremo ad ascoltare a brevissimo, anche perché mi sembra talmente particolare questo disco, poi appunto è del 1957, che vi ammorberò con due brani dei Firehouse 5 Plus 2 Orchestra. E questa è Between the Devil and the Deep Blue, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. E dove se no? Questa era Between the Devil and the Deep Blue dei Firehouse 5 Plus 2 Orchestra. E siccome vi voglio particolarmente ammorbare, datemi il tempo di girare il 45 qua sul giradischi, che vi farò sentire ai voi. Non so, io apprezzo particolarmente, però vi volevo far sentire appunto un altro brano da questa marching band di pompieri direttamente dal 1957, e adesso ci andremo ad ascoltare un altro brano sempre della Firehouse 5 Plus 2 Orchestra, che è Red Sails in the Sunset, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Decisamente più New Orleans, più marching band questo pezzo, questo dei, appunto, dei Firehouse 5+2 Orchestra. Ora, non volevo ammorbarvi già da ora con tutto il jazz che vi aspetterà nelle prossime puntate di Basement Records, perlomeno che qualcuno, qualche buon'anima non venga a salvarvi, però appunto per non far degenerare già nel jazz la puntata di stasera, cambiamo completamente genere per il prossimo 45 giri di recupero di stasera. Infatti andiamo proprio completamente in tutt'altro ambito, facciamo un salto di almeno un decennio e rotti. Infatti questo è un 45 del 1971, quindi proprio all'inizio degli anni 70, e gli aficionados si ricorderanno già nelle prime puntate di Basement Records, grazie ai 45 di Stefanone, che continuo a ringraziare, che comunque in Italia in quel periodo a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, incredibilmente avevano avuto abbastanza successo anche svariate band provenienti dal nord Europa, in special modo dai Paesi Baschi, dai Paesi Bassi, forse sono già troppe birre, comunque dai Paesi Bassi. Infatti questa è una band olandese che finì in classifica nella classifica commerciale italiana di quegli anni, stiamo parlando del 1971, e il gruppo in questione sono gli Sweet, senza la S finale, perché quella in realtà sarebbe un'altra band ancora, che non c'entra niente con gli Sweet, che ci andremo tosto ad ascoltare. E invece questa era una band di pop rock dell'inizio degli anni 70, che ha avuto, tra l'altro, ora non voglio definirla One Hit Wonder, ovvero quelli che hanno fatto un successo e poi sono spariti nel niente, ma c'è mancato veramente poco, perché da quello che ho potuto carpire, appunto, da due cose che sono andato a ricercare per raccontarvi qualcosa di questi The Sweet, questo è stato il loro pezzo di loro maggior successo, che comunque stiamo parlando di posizioni esime all'interno della classifica italiana, però molto particolare, perché appunto continua questa tradizione delle band dei Paesi Bassi nelle classifiche italiane a cavallo tra la fine dei 60 e l'inizio dei 70. Ditemi voi un po' cosa ne pensate. Questo è il loro brano, credo, di maggior successo nella loro carriera. Loro sono i The Sweet, dall'Olanda, e questa è Coco, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Ma senti questi olandesi che cosa non ti inventavano a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70? E questa era Coco degli Sweet. E il prossimo 45 assolutamente recuperato, appunto, sempre a mani tese, non potevo non prenderlo perché ora io so già che mi infamerete, forse farete anche bene, non lo so, lo valuterete poi dopo averlo ascoltato, però non potevo non prendere questo meraviglioso 45, dove in copertina c'è una lettera affrancata, tra l'altro, con solo la scritta "Caro papà". Ora mi direte, appena po' ti sei rincoglionito in questi 4-5 mesi che non ci sei stato, chissà che hai fatto. No, no, però un documento di tale lignaggio non potevo non prenderlo e non farvelo ascoltare, anche perché poi dopo, e mi infamerete doppiamente elevata a potenza, ho appurato che era una hit dello Zecchino d'Oro. Quindi sapete già dove stiamo andando a parare. In questo caso è questo 45 giri edito da Fonola, che i due brani contenuti nelle due facciate di questo 45 giri sono Lettera al papà lontano, ma soprattutto quella che vi farò ascoltare, ovvero il lato B, che è la terroncina del papà. Fantastico, infatti, i crediti sulla copertina del 45 sono di Antomar e il suo complesso. Canta Mariella Trincale, che vi accorgerete che ha veramente meno anni. Infatti il brano è scritto dal padre Franco Trincale. Però è fa cioè, fantastica perché il pezzo, la terroncina del papà. Secondo me, poi, anche se era un brano dello Zecchino d'Oro, avrebbe potuto avere, cioè, comunque connotazioni fino ai giorni nostri, a questa fine del 2021. Aspetto le vostre infamate a postawombat@insiberia.net, come sempre, o se no direttamente su qualsiasi piattaforma social in cui c'è Radio Wombat, però sappiate che adesso ci andremo ad ascoltare la terroncina del papà cantata da Mariella Trincale, accompagnata da Antomar e il suo complesso, che immagino di cui facesse parte anche il padre Franco Trincale, e sempre qui, ovviamente, a Basement Records, Radio Wombat. Vai con Lissio! Con la cioccolata, lui non mi sgrida come fa mamma. Sono la terroncina del papà. E quando a scuola va, mi prende per la mano e mi accompagna, e poi un mio bacino vuol. Sono la terroncina del papà. Quanti capricci che mi fa passare. Le spalmo sul naso nella pomata. Con fortuna vostra è durata solo 2 secondi e mezzo. Ringraziate lo Zecchino d'Oro, però secondo me era fantastico questo documento del passato. Come potevo fare a non prenderlo e a propinarvelo qua sulle frequenze di Radio Wombat? Mi sembra veramente il minimo. Però giustamente, se conoscete questo soggetto di qua dal microfono che è appena poco, saprete istantaneamente che da un estremo passeremo ad un altro. Infatti siamo giunti al momento culturale. Fine di ricreativo, principia e culturale. Infatti, wombati e wombatesse, a questo punto c'è questo disco meraviglioso, sempre in 45 giri, che però vi farò ascoltare nella sua totalità, lato A più lato B, perché questo è un documento, proprio lo definirei un documento storico. E infatti è questo disco, questo, anzi questo 45 giri, fa parte di una collana edita negli anni 70, leggo in questo momento autorizzazione del Tribunale di Milano del 10/7/1964, quindi stiamo parlando della metà degli anni 60. Siamo giunti al momento, definiamolo storia della musica. Infatti questo 45 edito da Fabbri Editore si rifaceva un po', voleva un po' ripercorrere la storia della musica, un obiettivo direi decisamente importante. Però questo primo 45 giri è proprio le origini, ovvero la musica ancestrale, tribale, ovvero quella musica delle tribù da ogni parte, delle tribù, diciamo, è un termine assolutamente scorretto, ma passatemelo, tra virgolette, primitive, ovvero che non hanno avuto chissà quanti contatti con la modernità e quindi ancora hanno nel proprio retaggio culturale delle sonorità ancestrali, assolutamente. E questo meraviglioso 45 giri, che lo potrei definire il momento Rai Storia o Rai Cultura di Radio Wombat, tenta di ripercorrere in 10 minuti, che alla fine erano il massimo, 10-12 minuti che erano il massimo della possibilità di registrazione di un 45 giri, la storia preistorica della musica. Sono spezzoni sonori, tra l'altro descritti dalla voce narrante, di un po' di tutte le parti del mondo, tribù delle colline della Nuova Guinea, l'isola della Nuova Irlanda, la Guinea Nord Orientale, i pigmei del Congo, il Giappone, l'India del Sud, l'India del Nord, chi più ne ha più ne metta. Questo è veramente un percorso nella musica ancestrale dell'umanità, e quindi chi già aveva ascoltato le precedenti trasmissioni sia di Basement che di Tonight Alive sa che sono uno che ammorba su queste cose, su queste cose scolastiche. Però quando ho trovato questo 45 giri, non ho potuto esimermi da prenderlo e soprattutto nel farvelo ascoltare. Sentitevi questo viaggio, perché è autenticamente un viaggio con una voce narrante che spiega quello che andrete ad ascoltare. Sono 5 minuti e rotti del primo lato, poi io proprio fisicamente dovrò girare il 45, vi sparerò due stronzate nel frattempo. Per poi cambiare lato e farvi sentire anche la seconda parte. Inizia il culturale qua su Radio Wombat a Basement Records. Questo primo disco è dedicato a un argomento misterioso, complesso ed antico quanto la vita stessa dell'uomo sulla Terra. L'origine della musica. Chiediamo perciò all'ascoltatore di accostarsi ai documenti che abbiamo registrato come a rarissimi e inconsueti esempi musicali, eco di una realtà lontana da noi fino a 2000 anni. I fenomeni che risvegliano lo spirito di imitazione dell'uomo sono probabilmente, da principio, quelli naturali che lo circondano. Il rumore delle cascate e del mare, il soffio del vento, il suono accidentalmente prodotto da due pietre battute tra loro. I versi degli animali, abilmente imitati, diventano un valido aiuto per la caccia, fino alla nascita del linguaggio intonato. Il suono stesso di una parola o di una frase, preso come termine di paragone, è ricreato con i primi strumenti a fiato, le canne o le conchiglie del mare. I primi strumenti a percussione sono costruiti con tronchi cavi e pelli di animali. Mentre nelle danze sacre delle tribù primitive rivivono i riti magici delle civiltà totemiche. Nei templi dell'antica Cina, il canto e le campane dei monaci buddisti risvegliano sonorità misteriose. In India ascoltiamo la voce umana guidare, con uno straordinario senso del ritmo, il suono del tamburo. Fino alla realizzazione di un autentico assolo di questo strumento. Poi la preghiera dei bramini che cantano le lodi del dio Shiva. E le melodie ragas, che commentano con suoni diversi il volgere dell'ora e delle stagioni. La dea Kali è invocata nei canti filosofici bengalesi con melodie che hanno la pura semplicità di una preghiera. pole gumai kali baganer jebono mali pole pole gumai kali shomoy kale yore mono kali kali bolo re mon phol koi holo shomoy kale yore mono kali kali bolo re mon phol koi holo chader bagane re mon. E appunto, già come precedentemente detto, dovrò proprio fisicamente girare il lato del vinile per farvi ascoltare le restanti documentazioni di questo fantastico 45 che non dura mai 5 minuti per lato. Lo sto girando, non vi preoccupate, danni, tragedie in questo momento. Eccovi la seconda parte, non ve la perdete. Lo splendore di Java e di Bali rivive nell'incanto di strumenti e voci che hanno la suggestione stessa della delicata e selvaggia natura tropicale. Nel vivace ritmo iraniano, detto Isfahan, una tradizione orientale vuole si debba veder rappresentata la bellezza dell'antica città di Isfahan, ricca di duomi e di minareti. Nei canti tradizionali dell'Anatolia possiamo osservare tracce di un sistema musicale assai simile a quello greco. E poi la Grecia classica, che ancora oggi vive in molti canti popolari. Come pure nelle sue danze tradizionali. Chiudiamo questa nostra rassegna con il canto che ci tramanda nel rito ebraico, insieme con l'antichissima preghiera del sabato, il ricordo delle accorate melodie bibliche. Che meraviglia, e via, è finito il momento storico di Basement Records, però non potevo non farvi ascoltare un documento del genere. Per me è stato veramente incredibile, cioè un focus di un'epoca, appunto quella dell'inizio degli anni 70, dove c'erano anche dei dischi con una funzione culturale, ecco, diciamolo, visto che sono un palloso, penso che ormai avrete imparato a conoscermi, non potevo farvi sentire questo 45 nella sua totalità, ecco. Però, ecco, finito il momento culturale, ora per chiudere la puntata in allegria, visto che comunque è sempre sabato sera e non potevo farvelo finire così, appunto, con il momento Rai Storia, ritorniamo indietro ai Bar Keys, che sono già qui pronti nell'altro deck del giradischi, e ci andremo ad ascoltare il lato B di Song of Shaft, che in questo caso è Sang and Dance. Massima allegria, massima Radio Wombat e sempre in pompa Basement Records. Get it! Everybody, we gonna sing and dance this evening. I want all you good dancers to come on, sing and dance with me this evening. Yeah! You know the Indians had a thing? Yeah! It was a hip thing. They were singing and dancing. They did a thing something like this. Yeah! You sound so after people to see. Good God! You know the Watus Africans sing and dance? Yeah! The Africans, all Africans got a thing. They sing and dance. But you know what? We the Wake. We're gonna show you how to do our thing. We're gonna sock it to you. Here we go. Good God! Wait a minute, let's blow this thing up. Look at him. I want all the girls to come on, sing and dance with me this evening. Come on, girl. Yeah. Ooh, you sound so sexy. Lord have mercy. Come on, brother, do your thing. Good God. The Rockies don't do their thing. Good God. Everybody come on. I want all the girls one more time to do your thing. Come on, girl. Yeah, you sound so good. I want all the boys to do your thing. Yeah, a little louder now. The barcade got two horns there. Ben and Harvey, they gon' sock it into your family this evening. Come on, Ben and Harvey, sock it to them. Get it on. Stupid louder now. Questi erano i Bar Keys, la house band di Casa Stax, Giusto così per non farvi finire la puntata in maniera pesante. E allora sull'altro deck c'è un altro vecchio 45, già mandato sicuramente, ma probabilmente non il lato B di questo singolo, di questo 7 pollici. Stiamo parlando di un'altra band leggendaria della black music. Stiamo parlando dei Temptation, band che ha fatto la storia. Questo è Take a Look Around. Enjoy. In Basement Records, Radio Wombat. If you catch a robber, dirt in your face if your scheme falls through, pay close attention to my story, and you'll find every word is true. Junk man standing on the corner, selling death, no conscience has he. In the name of God, won't somebody stop me? Stop me, think about the children. It's a matter of life and death. You're feeling so uptight. Questo era l'ultimo pezzo per stasera, per questo sabato sera. E non posso che, come di consueto, rinnovare l'appuntamento qui sulle frequenze di Radio Wombat. Mi scuserete, ma visto la mia lunga latitanza, sto leggendo in questo momento quali sono i programmi di ieri sera. Non che non lo facessi prima, per carità, però per la prosecuzione degli ascolti qui su Radio Wombat, domani, domenica, inizieremo subito in diretta alle 10 la mattina con i contenuti di Container, fantastico, con tutto quello che abbiamo raccolto, gli interventi, i vari le varie provvigioni che ci sono arrivate in settimana e che non sono riuscite a trovare posto in una trasmissione di Radio Wombat di questa settimana, le troverete tutte domani mattina in container alle ore 10 fino alle ore 12. Poi il palinsesto continuerà con la replica di Libri Ribelli, la fantastica trasmissione di Sansa, dove ci leggerà dei meravigliosi. È praticamente una trasmissione audiolibri con Sansa che ci leggerà dei fantastici libri a noi molto cari. Ed è una replica della trasmissione andata in diretta, e la replica sarà dalle 11 fino a mezzogiorno, fino all'ora di pranzo, per poi proseguire con la diretta del notiziario, del leggendario ormai notiziario anticlericale, che andrà in diretta domani da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo. E poi proseguiremo con la replica di Wookwops dalle 14 alle 15, la diretta una volta ogni 15 giorni di Poyuit dalle 15.30 alle 17.30 di domenica, che poi proseguirà con la diretta delle mie eroine, ovviamente, La fuga del gatto, la parentesi di musica classica nella domenica di Radio Wombat, con Bloody Mary e la Virgi che ci allieteranno con la musica classica su Radio Wombat dalle 18 alle 19.30. E poi la programmazione, la domenica è fittissima qua su Radio Wombat, le trasmissioni proseguiranno con la diretta dell'Arte del Vizio dalle 19 alle 21, per poi concludersi alla fine con, per me, il nuovo format del furto delle trasmissioni dalle radio amiche. Non so cosa andrà la prossima domenica, però insomma le radio amiche sono Radiogramma, Radioforte e tutto il resto delle radio, degli spazi sociali all'interno della penisola italiana, che vedrà appunto la replica dalle 21.30 alle 22.30. E per quanto mi riguarda, non posso che farvi i miei doverosi saluti e rinnovare l'appuntamento con Basement Records o Radio Wombat, ormai chi lo sa, faccio un po' come cazzo mi pare. Chissà cosa, credo che sarà un'altra puntata di Basement prossima settimana, anzi quasi sicuramente, perché ho già degli ospiti in attesa. E vi rinnovo l'appuntamento qui sulle leggendarie frequenze di Radio Wombat, radiowombat.net per lo streaming, vi ricordo, e 1359 1359 in AM per chi vive, abita o purtroppo per lui, lei si ritrova a stare nelle zone limitrofe a Firenze. Una musatina dal Wombat e un caro saluto qui da appena poco, e ci sentiremo settimana prossima sempre qui su Radio Wombat. E dove se no?